fuori ancora nevica. Tu così poetica e son qui a confondermi tra la gente che sembra, sembra forse in fondo ti somiglia, leggera come un battito di ciglia. Questo tempo non ci dà certezza e ti ho sentita piangere. Tu così bella e fragile, tra tutte le promesse sei la sola che io manterrei per sempre. Te lo dicevo sempre, ora che sei distante, nonostante tutto, sai che io ti amerò per sempre. Ma sai, non serve a niente far finta di essere forte, quasi come poi fidarsi dei discorsi di una notte agli occhi di tua madre. E mi ricordi gli anni passati ad inseguirti. Se ti rincontrassi adesso saresti cambiata, come vedere nuvole nella notte stellata. Sei riuscita a dare un senso a tutta la mia vita, io che dentro me avevo il caos di Guernica. E ti ho sentita piangere, tu così bella e fragile, tra tutte le promesse sei la sola che io manterrei per sempre. Te lo dicevo sempre, ora che sei distante, nonostante tutto, sai che io ti amerò per sempre. Ma sai, non serve a niente far finta di essere forte, quasi come puoi fidarsi dei discorsi di una notte. E sento il tuo profumo ancora impresso addosso, guardo il mio riflesso e non mi riconosco. Potevamo fare invidia a tutto il mondo, da protagonisti adesso siamo sfondo. Noi che ballavamo in mezzo a una tempesta, mano nella mano era sempre una festa. Adesso non ricordo più come si balla, la pioggia questa sera sai che ti somiglia. Ed io ti cercherò per sempre, te lo dicevo sempre,